l'acciaio che stringi tra le mani le stesse con le quali poi accarezzi la gente. Accarezzi la gente. Non è solo l'acciaio che stringi tra le mani per te. Ora è il marmo che la schiena ti ghiaccia, la schiena le tempo.